Così, insomma, Terry ci portò le tre pinte che offriva Joe. E per Diana mi venne a mancar quasi la vista quando spiattellò una svanzica. Vero come vero che io sono io. Una bella, luccicante sovrana. Non abbiate paura, che ce ne sono delle altre, dice. Ti sei ripulito la cassetta delle elemosine, Joe? Faccio io. Sudor della fronte, dice Joe. È stato papà Prudenza a darmi l'imbeccata. L'ho visto prima di incontrarti, faccio io, che gironzolava in Pin Lane e Greek Street con quell'occhio da ghiozzo a cercare il pel nell'uovo dappertutto. Chi sen viene per la contrada di Maiken, ricinto di nera armatura? O Bloom, figlio di Rory, ed esso non sa che sia timore di Rory il figlio, l'uomo dai prudenti spiriti. Per la vecchiaccia di Prince Street, dice il cittadino, l'organo sovvenzionato, il partito del giuramento alla Camera. E guardi questo foglio dei miei stivali, dice. Guardi qua, dice. L'irlandese indipendente, prego, fondato da Parnell perché fosse l'amico del lavoratore. State a sentire. Le nascite e le morti, nell'irlandese tutto per l'Irlanda indipendente, e grazie tante, e anche i matrimoni. E comincia a leggere a voce alta. Gordon, Banfield Crescent, Exeter. Redmayne di Iffley, Sant'Anna sul mare. La moglie di William T. Redmayne, nascita d'un figlio. Che ne dite, eh? Wright e Flint. Vincent Gillett e Corrotta Marion, figlia di Rosa e del fu George Alfred Gillett, 179 Clapham Road, Stockwell, Playwood e Risdale a St. Jude, Kensington, davanti al molto reverendo dottor Forrest, decano di Worcester. Eh? Le morti, Bristow, in Whitehall Lane, Londra, Carr, a Stoke Newington, di gastrite e mal di cuore, Cockburn. Alla casa del fossato, Chepstow. Lo conosco, questo, dice Joe, per amara esperienza. Cockburn, Dimsey, moglie di David Dimsey, ex funzionario dell'ammiragliato. Miller, a Tottenham, all'età di 85 anni. Welsh, 12 giugno, a 35, Canning Street, Liverpool. Isabella Helen. Non c'è male come stampa nazionale, vero figlietto? Che ne direbbe Martin Murphy? Il cottimista di Bantry. Beh, beh, dice Joe, facendo circolare i cicchetti. Grazie a Dio ci ha dato la polvere. Bevi, cittadino. Senz'altro, dice lui, onorevole amico. Alla salute, Joe, faccio io, e a tutto il mortorio. Ah, non parlate. Ne avevo una voglia boia di quella pinta. Giuro a Dio che me la son sentita arrivare dritta dritta in fondo allo stomaco. Mirate dunque, mentre che essi cioncavano con nappo gaudioso, un celeste messaggero s'avanzò, raggiante come l'occhio del cielo, un giovane prestante, e dietro a lui trascorse un veglio dal nobile incedere ed aspetto, recante i sacri cartigli della legge. E con lui la sua sposa e signora dama di impareggiabile lignaggio, la più bella della sua schiatta. Il piccolo Alf Bergan saltò dentro dalla porta e si nascose nel retro bottega di Barney, piegato in due dal ridere. E indovinate un po' chi c'era nell'angolo che non l'avevo visto, ubriaco da russare, Bob Doran in persona. Non sapevo cosa succedeva e Alf continuava a far segno di guardar fuori. E per Diana c'era né più né meno di quel fottuto vecchio pagliaccio di Dennis Brin, in pantofole, con due libracci fottuti ficcati sotto l'ascella, e la moglie, pie veloce dietro a lui, disgraziata lei, a trottare come un cagnolino. Credevo che Alf schiantasse dal ridere. Guardatelo un po', dice. Brin viaggia in giro per Dublino con una cartolina che gli ha mandato qualcuno con scritto sopra. S.U. su, e lui via di corsa per dar què, e si piegò in due. Dar che cosa? Dar querela per diffamazione, dice lui, e 10.000 sterline di danni. Accidenti, faccio io. Il bastardo fottuto cominciò a ringhiare che c'era da farsela addosso, vedendo che c'era qualcosa per aria, ma il cittadino gli tirò un calcio nelle costole. Bia Eduast, dice lui. Chi? Dice Joe. Brin, dice Alf. Era da John Henry Menton e poi è andato da Collis e Ward e poi l'ha incontrato Tom Rochford e l'ha mandato dal sottosceriffo per fargli uno scherzo. Dio mio, mi è venuto male da ridere. S.U. Su. Il lungo gli ha fatto una faccia nera come una cappa di camino e ora quel vecchio pazzo fottuto se n'è andato in Green Street a cercare uno della polizia. Quando è che John il lungo deve impiccare quel tale a Mongeoy? Dice Joe. Bergan, dice Bob Doran svegliandosi. Chi è? Alf, Bergan? Sì, dice Alf. Impiccare? Aspettate, vi faccio vedere. Forza, Terry, dacci da bere. Quel vecchio rimbambito. 10.000 sterline. Avreste dovuto vedere la faccia di John il lungo. S.U. E si mise a ridere. Ma di chi ridi? Dice Bob Doran. È Bergan quello. Sbrigati, Terry mio, dice Alf. Terence O'Ryan lo udì e incontamente gli portò una coppa di cristallo piena di cervogia spumeggiante color ebano che i nobili gemelli Bangi Veag e Bangar di Laon eternamente distillano nei loro tini divini, astuti al par dei figli di Leda immortale. Dappoiché essi serbano le succolenti bacche del luppolo e le ammucchiano e stacciano e schiacciano e fan bollire e mesconvi di poi acidi succhi e appressano il mosto al sacro fuoco e mai non cessano notte e dì dal loro lavoro, gli astuti fratelli, signori del Tino. E allora tu, o cavalleresco Terence, porgesti, come quei che lo sa da quando è nato, il nettario beveraggio e offristi la coppa di cristallo al sitibondo. Tu, anima della cavalleria, pari in bellezza agli immortali. Ma lui, il giovane capo degli Obergan, mal sofferì ad esser vinto in generosità e però porse con gesto grazioso un testone di bronzo prezioso. Ivi sbalzata, eccellente opera di fabbro, veder potevasi l'immagine d'una regina di regal portamento, rampollo della casa di Brunswick. Vittoria si nomava, Sua Eccellentissima Maestà, per grazia di Dio, del Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda e dei domini britannici di là del mare, regina, difenditrice della fede, imperatrice d'India, colei che portava lo scettro. Vincitrice di molti popoli, bene amata, poiché essi la conoscevano e la amavano dal sorgere del sole al calar del medesimo, i pallidi, i neri, i rossi e gli etiopi. Che cosa armeggia quel fottuto massone? Dice il cittadino, avanti e indietro sul marciapiede. Che c'è? Dice Joe. Eccoci qua, dice Alf, tirando fuori la grana. A proposito di impiccagioni, vi mostrerò qualcosa che non avete mai visto. Lettere di boia. Guardate un po'. Così tira fuori di tasca un mucchio di stracci di lettere di buste. Ci stai prendendo per il naso? Faccio. Parola mia, dice Alf, leggetele. Così Joe prese le lettere. Di chi state ridendo? Dice Bob Doran. Così credetti proprio che alzassero polvere. Bob è un tipo strano quando ha alzato il gomito. E allora gli faccio, tanto per dir qualcosa. Che fa di bello Willie Murray, Alf? Non lo so, dice Alf. L'ho visto proprio ora in Capel Street con Paddy Dignam. Ma correvo dietro a quel. Che cosa? Dice Joe mollando le lettere. Con chi? Con Dignam, dice Alf. Mica Paddy, dice Joe. Sì, dice Alf. Perché? Ma non lo sai chi è morto, dice Joe. Paddy Dignam morto? Dice Alf. Sicuro? Dice Joe. Son sicuro d'averlo visto non più di 5 minuti fa, dice Alf. Chiaro come il sole. Chi è morto? Dice Bob Doran. Allora hai visto il suo fantasma? Dice Joe. Dio ce ne scampi e liberi. Come? Dice Alf. Cristo buono, appena 5, ma come? E c'era con lui Willie Murray, tutti e due vicini a come si chiama? Cosa? Dignam morto. Cosa c'è da dire di Dignam? Dice Bob Doran. Chi parla di morto? Dice Alf. Non è più morto di te. Può anche essere, dice Joe. Si sono presi la libertà di seppellirlo stamattina, però. Paddy, dice Alf. Eh sì, dice Joe. Ha pagato il suo debito alla natura. Dio abbia pietà di lui. Cristo buono, dice Alf. Per Diana era mezzo rincorbellito, ve lo dico io. Nelle tenebre si sentivano aleggiare mani spiritali. E quando la preghiera, secondo i tantra, fu rivolta nell'opportuna direzione, una tenue ma crescente luminescenza di luce color rubino divenne gradualmente visibile, essendo l'apparizione del sosia eterico particolarmente realistica, a cagione dei raggi givici che si irradiavano dal sommo della testa e dal volto. La comunicazione si effettuava attraverso il corpo pituitario e anche per mezzo dei raggi arancio fiammanti e scarlatti emanati dalla regione sacrale e dal plesso solare. Chiamato col suo nome terreno e interrogato su dove si trovasse nel regno degli spiriti, egli affermò di essere ora sulla via del pralaya o del ritorno, ma di essere ancora messo alla prova da parte di alcune entità assetate di sangue dei piani astrali inferiori. In risposta a una domanda concernente le sue prime sensazioni sulla linea divisoria del di là, affermò che in precedenza aveva visto come in uno specchio oscuro, ma che coloro che erano passati di là avevano possibilità eccelse di sviluppo atmico aperte davanti a sé. Interrogato circa il fatto se la vita là assomigliasse alla nostra esperienza nella carne, affermò di aver sentito dire, da esseri più di lui privilegiati ora nello spirito, che le loro magioni erano fornite d'ogni moderna comodità domestica, quali talafana, ashansara, acqua calda, vataklasat, e che gli adepti più elevati erano immersi in onde di voluttuosità del tipo più depurato. Avendo richiesto un litro di latte acido, gli fu portato. E ne conseguì evidente sollievo. Richiesto se avesse qualche messaggio per i viventi, esortò tutti coloro che erano ancora al di qua di Maya a riconoscere la vera strada perché circolava insistente la voce nei circoli devanici che Marte e Giove stessero combinando guai all'angolo orientale sotto la dominazione dell'Ariete. Fu allora domandato se ci fossero desideri particolari da parte del defunto e la risposta fu: Vi salutiamo, amici rimasti sulla terra, che ancora siete nel corpo. Attenti che CK non se ne approfitti. Fu accertato che l'allusione era diretta a Mr. Cornelius Keller, direttore della popolare impresa pompe funebri Mrs. H.J. O'Neills, amico personale del defunto, che si era assunto la responsabilità di tutto ciò che riguardava le esequie. Prima di allontanarsi, egli richiese che si dicesse al caro figlio Pazzi che l'altra scarpa, da lui cercata, si trovava adesso sotto il comò della stanza a mezzanino e che si doveva mandare il paio a risuolare da Cullen, solo risuolare perché i tacchi erano ancora buoni. Affermò che questo aveva fortemente turbato la sua tranquillità di spirito nell'altro mondo e vivamente richiese che fosse manifestato il suo desiderio. Furono date assicurazioni che si sarebbe provveduto alla bisogna e fu palesato da parte sua che ciò aveva procurato soddisfazione. Dalle dimore mortali si è dipartito, o Dignam, sole nel nostro mattino. Lieve trasvolava il suo piede sulle felci secche, Patrick dalla fronte lucente. Gemi, o bamba, con i tuoi venti, e E gemi tu, oceano, con i tuoi turbini. Rieccolo, dice il cittadino guardando fuori. Chi? Faccio io. Bloom, dice lui. È di fazione là, avanti e indietro, già da 10 minuti. E per Diana, vidi anch'io quel suo muso dare una sbirciatina dentro e poi scivolare via di nuovo. Il piccolo Alf c'era rimasto di sale, parola mia d'onore. Cristo buono, dice, avrei giurato che era lui. E allora Bob Doran, col cappello all'indietro sulla zucca, il peggiore manigoldo di Dublino quando ha trincato più del solito. Chi ha detto che Cristo è buono? Come, perfettore? Dice Alf. Vi par buono il Cristo, dice Bob Doran, che si va a prendere quel poveretto di Willie Dignam. Beh, dopotutto, dice Alf, cercando di non darci peso, l'ha finita con tutti i guai che aveva. Ma Bob Doran gli urla in faccia: è un porco fottuto, dico io, a prendersi quel poveretto di Willie Dignam. Terry s'avvicinò e gli strizzò l'occhio che stesse tranquillo, che non volevano sentire di quei discorsi in un locale rispettabile e autorizzato. E Bob Doran comincia a frignare per Paddy Dignam: quant'è vero che tu stai lì? Il migliore degli uomini, dice piagnucolando, il miglior carattere, il più onesto, con le fottute lacrime in tasca, a parlare a cavolo di cane fottuto. Meglio che tornassi a casa da quella troietta di sonnambula che ha sposato, Mooney, la figlia dell'usciere. La madre teneva un casino a Hardwick Street, dove lei andava in giro sulle scale, mi diceva Bantam Lyons che ci si era fermato, alle 2 di mattina senza uno straccio addosso, con ogni ben di Dio in mostra, ingresso libero a tutti, gioco leale e niente favoritismi. Il più nobile, il più leale, dice lui, e se n'è andato. Povero piccolo Willy, povero piccolo Paddy Digna. E dolente, col cuore oppresso, egli lamentava l'estinzione di quel raggio del cielo. Il vecchio Gary Owen ricominciò a ringhiare contro Bloom, che girava e rigirava intorno alla porta. Venga, forza, non la mangia mica, dice il cittadino. Così Bloom si infila dentro con quell'occhio da pesce morto fisso sul cane. E chiede a Terry se c'era Martin Cunningham. Oh, Cristo McKeown, dice Joe, leggendo una delle lettere. Sentite un po' questa, eh? E comincia a leggerne una a voce alta. 7 Hunter Street, Liverpool, allo sceriffo capo di Dublino, Dublino. Egregio signore, mi pregio offrire i miei servigi nel summenzionato caso doloroso o impiccato Joe Gunn nella prigione di Bootle il 12 febbraio 1900 e ho impiccato da qua Joe faccio io il soldato semplice Arthur Chase per l'assassinio aggravato di Jesse Tilsit nella prigione di Pentonville e ho fatto l'aiuto quando Gesù faccio io Billington ha giustiziato Toad Smith il celebre assassino. Il cittadino fece per aggranfiare la lettera. Aspettate un po', dice Joe. Ho una specialità di mettere il laccio che quando l'ha al collo non ne sorte fuori. Sperando d'esser favorito, mi firmo, egregio signore, la mia tariffa e 5 guinee. H. Rumbold, barbiere diplomato. Barbiere barbaro fottuto, per giunta, dice il cittadino. E guarda un po' che zampe di gallina, sto disgraziato, dice Joe. Tieni, dice, levamele di sotto gli occhi, Alf. Olà, Bloom, dice, cosa prende? Così ti cominciano il tira e molla. Bloom a dire che non vuole e non può, e scusate senza offesa, eccetera. E poi disse, via, prenderò un sigaro. Per Diana, papà, prudenza, non c'è niente da dire. Dacci uno di quegli zampironi di prima scelta, Terry, dice Joe. E Alf ci stava dicendo che ce n'era uno che aveva mandato un biglietto a lutto con il bordo nero attorno. Sono tutti barbieri, dice, che vengono dalla zona industriale dell'Inghilterra e impiccherebbero il padre per 5 sterline una sull'altra e le spese di viaggio. E ci raccontava che due stanno di sotto per tirargli le gambe quando lo lasciano cadere e a strangolarlo per benino. E poi dopo tagliano a pezzi la corda e ne rivendono i pezzi per pochi scellini a capoccia. Nella scura contrada, andimora, i cavalieri vendicatori del rasoio, spire mortali, anne alla mano. In verità con esse costoro guidano all'erebo qualsiasi sia umano che abbia commesso un fatto di sangue, perché io in alcuna guisa non lo sofferirò. Così appunto, disse il Signore. Così giù tutti a parlare della pena capitale. E Bloom, manco a dirlo, ci ficca anche lui il naso, coi suoi perché, per come, e tutta la cogliomberologia sull'argomento. E il vecchio cane a annusarlo di continuo. Mi dicono che i giudei hanno addosso un certo odorino, che i cani lo sentono subito. E a proposito di non so che effetto deterrente, e avanti di questo passo. C'è una cosa che non subisce l'effetto deterrente, dice Alf. Cos'è? Dice Joe. L'arnese del povero diavolo che stanno impiccando, dice Alf. Ah sì? Dice Joe. Quanto è vero Iddio, dice Alf. Me l'ha detto quel capo carceriere che era Kilmainham quando impiccarono Joe Brady, l'invincibile. Mi disse che quando tagliarono la corda dopo il capitombolo se lo trovarono ritto sotto il naso come un attizzatoio. La passione dominante forte anche nella morte, dice Joe, come ha detto qualcuno. Questo si spiega scientificamente, dice Bloom. È solo un fenomeno naturale, capite? Perché a causa del e giù quei paroloni da slogare le mascelle, fenomeno e scienza e fenomeno qui e fenomeno là, l'illustre scienziato Herr Professor Luitpold Blumenduft depose in qualità di perito medico, dimostrando che la frattura istantanea delle vertebre cervicali e la conseguente scissione del midollo spinale si calcolava dovesse, in base alle più solide tradizioni della scienza medica, inevitabilmente produrre nel soggetto un violento stimolo gangliare dei centri nervosi dell'apparato genitale, in tal modo provocando la rapida dilatazione dei corpora cavernosa, così da facilitare istantaneamente il flusso del sangue verso quella parte dell'anatomia umana conosciuta col nome di pene o organo sessuale maschile, e avendo come risultato il fenomeno che la facoltà ha definito erezione morbosa e filoprogenitiva verticale orizzontale in articulo mortis per diminutionem capitis. Così, naturalmente, il cittadino che non aspettava altro comincia a dargli addosso a proposito degli invincibili e della vecchia guardia e degli uomini del 67 e chi ha paura di parlare del 98 e Joe che gli tiene bordone per tutti quei disgraziati che hanno impiccati, sbudellati e deportati per la causa con la corte marziale sommaria. È una nuova Irlanda, è il nuovo qui, è il nuovo là. A proposito di Nuova Irlanda, se si comprasse un nuovo cane, lui che parla tanto, bestiaccia ingorda e rognosa che annusa e snasa dappertutto e si gratta la scabbia. E ora va da Bob Doran, che sta offrendo una mezza pinta ad Alf e si mette a fargli le feste per rimediare qualcosa. Così per forza Bob Doran si mette a fare il fesso fottuto con il suo. Da qua la zampa! Qua la zampa, cagnolino! Cagnolino bello! Da qua la zampa, dalla zampa! Via! Fottuta la zampa che azzampava e Alf che cercava di tenerlo perché non cascasse da quel fottuto seggiolino addosso al cagnaccio fottuto. E lui che diceva un sacco di coglionerie su come allevarli con le buone e il cane di razza, il cane intelligente da far venire gli stranguglioni fottuti. Poi si mette a cavar fuori dei pezzetti di biscotto stantio dal fondo di una scatola di Jacob che aveva detto a Terry di portare. Per Diana, se ne ingozzò come un paio di scarpe vecchie e ne chiese dell'altro con la lingua a penzoloni lunga 1 metro. Per poco non si mangia anche la scatola di latta, quel fottuto bastardo affamato.